Prendo ancora spunto dal libro di Luigi Zoia, Storia dell'arroganza, per parlare delle metafore, dei miti, dei sogni che abitano la nostra mente inconscia e che affiorano di tanto in tanto anche la mente conscia e che comunque guidano in gran parte la nostra vita, cioè sono più potenti spesso della nostra volontà. Allora, intanto una prima cosa, all'epoca dei Greci, le divinità, gli dèi, erano persone del tutto simili all'uomo, con i loro capricci, con le loro caratteristiche assolutamente di carattere assolutamente umane. Erano in pratica la personificazione di differenti passioni che si impongono sulla volontà. In ogni epoca, i movimenti psichici profondi, appunto le varie passioni, aggressività, amore, eccetera, sono stati avvertiti dall'uomo come costrizioni, come qualcosa di esterno, un soggetto esterno che si imponeva a lui e quindi non è stato difficile identificarli con divinità. Perché erano sentite come entità di esterne, come parte quindi della teologia. Oggi non abbiamo difficoltà a considerarle come spinte interiori, più forti dell'intenzione cosciente, o almeno con cui l'intenzione cosciente, il nostro io, deve spesso combattere o comunque mediare. Per poter comprendere questo passaggio bisogna sciogliere uno dei miti che attraversa molte persone, che attraversa tante persone, cioè che ogni persona sia un'unità, ecco, che io sono io, tu sei tu. Ecco, questa visione di unità come qualcosa di coeso è del tutto falsa. La psiche non è unitaria, la psiche è fatta di tante parti, di tanti frammenti e è già un passo avanti quando si riesce a creare un centro che tende almeno a unificarli, quello che in Aleph chiamiamo io governo. Ma questa è la normalità, non è la patologia. Allora, queste differenti parti nella mitologia antica venivano viste come dei, oggi vengono viste come invece, in modo più vicino alla nostra sensibilità, come moventi inconsci, moventi consci o inconsci, che comunque spesso ostacolano la persecuzione dei nostri obiettivi e che ci rendono difficile la vita talvolta. Ora, la metafora mitica rispetto a quella psicologica di oggi, delle parti interne e così via, è molto più emozionante ed è molto più persuasiva, quindi un impatto più grande. In ogni caso, noi per poter agire su questo, anche perché la metafora mitica, diciamo così, era collettiva, quindi era qualcosa che riguardava tutti gli esseri, non so, quindi qualunque, quando ci si riferiva a una divinità, e beh, tutti sapevano di cosa si trattava. Quando oggi ci riferiamo a una parte interna, ognuno sembra avere la sua, diversa le parti interne sono diverse le une dagli altri. Bene. Vorrei adesso parlare di un tema fondamentale per noi come Aleph, che è il tema dell'educazione, dell'autoeducazione e della formazione permanente. I greci facevano proprio questo, cioè i greci si distaccavano dagli altri popoli antichi proprio perché per l'intenso coinvolgimento che mettevano nell'educazione. La paideia, educazione, non si limitava gli studi giovanili, ma riguardava lo sviluppo umano in ogni età e circostanza. E soprattutto, questo è importante e purtroppo ci differenzia molto da loro, non significava trasmissione di un sapere acquisito e classificato, come purtroppo avviene nella scuola. Mirava invece a che cosa? Alla scoperta e al dispiegamento delle doti depositate nell'uomo dalla natura. Doti depositate nella natura come dei semi. Ecco, la natura, tra l'altro, viene da natus, e quindi quando i semi depositati dalla natura vuol dire depositati sin dalla nascita. Il greco classico considerava dovere sviluppare ciò che la natura gli aveva dato. Anche oggi questo spesso viene riconosciuto come un dovere dalla persona, comunque qualcosa da fare, insomma, qualcosa di... Ecco, però c'è una differenza rispetto a loro. Cioè, oggi, quando noi diciamo voglio attualizzare le mie potenzialità, non voglio sentirmi sprecato nel mio lavoro, voglio realizzare me stesso, l'autorealizzazione, insomma, la vediamo in termini individuali. Mentre allora non era mai intesa lo sviluppo individuale come fine a se stesso, ma come inseparabile dall'appartenenza a una città-stato. Così per i greci era inimmaginabile un'anima individuale separata dall'anima collettiva della città. E all'epoca di Platone, e Platone stesso considerava che appunto che fosse intollerabile un singolo che non si dedicasse a un lavoro utile e un lavoro e magari a dedicarsi a ciò che serviva allo Stato, visto come una specie di religione. Quindi la crescita era vista della persona, dell'uomo, era vista come interna alla società, così come una pianta cresce in mezzo a un bosco. E realizzare le leggi della natura significava proprio questo: crescere come cresce una pianta e nello stesso tempo avere presente i limiti, perché anche una pianta ha dei limiti, un albero non cresce a dismisura, un animale non cresce a dismisura. Ora, questo rapporto tra crescita e limite è un rapporto difficile comunque, perché richiede sempre un continuo bilanciamento. E in un certo senso fu questa attenzione verso la crescita dell'esplorazione piena dell'individuo fu un prodotto del V secolo, dopo la lotta sui persiani, dopo la vittoria sui persiani. Ed era tutto sommato una novità, perché le religioni tradizionali portavano all'immobilismo. La visione greca, prima del V secolo, era sicuramente una visione ciclica, in cui, come le stagioni, le cose si ripetono. E quindi l'essere umano, il compito era quello di contemplare la natura, cogliere le leggi e uniformarsi a queste leggi per stare al proprio posto, altrimenti si macchiava di ibris, tracotanza, e andava incontro alla nemesis, quindi la vendetta degli dèi. Allora, dicevo che ci sono questi due poli: da una parte novità, dall'altra moderazione per i greci, e era difficile mantenere questo equilibrio tra l'autoperfezionamento individuale e il senso dello Stato, che era il senso del collettivo, il senso del campo più ampio dentro cui l'individuo è situato. Pian piano iniziò a svilupparsi l'individualismo, cioè il pensare a sé. Lo sviluppo quindi dell'ego, è lì che troviamo le radici dell'ego moderno che è inscritto in ogni personalità di oggi. Se vogliamo proprio andare a vedere dov'è l'origine, è lì. Bene, quando Jung, attraverso i suoi studi, superò le categorie tradizionali di sanità e malattia e si avvicinò a comprendere il processo di individuazione, cioè della formazione della persona, come un percorso, come un viaggio attraverso le diverse problematiche psichiche, fu influenzato indubbiamente dal movimento romantico e in particolare anche da Nietzsche, dal libro, per esempio, dalla sua opera Ecce Homo, come si diventa ciò che si è. E l'individuazione, cioè l'idea di diventare individui, quindi in un certo senso ben distinti, ben separati dagli altri, conteneva già all'epoca dei greci questo seme pericoloso, cioè pericoloso in senso che poteva andare al di là del limite naturale della crescita dell'ego a dismisura, che troviamo poi nell'uomo moderno, il quale non si è posto più alcun limite e ha visto la crescita senza limiti come qualcosa di assolutamente naturale, anzi il suo compito. La moderna economia si fonda sul fatto che la società non rimane com'è, ma deve continuamente crescere, e questo è un fatto nuovo nella storia umana, la cui appunto origine, il cui seme lo troviamo già nella civiltà greca a cavallo del V secolo. Dirò ancora due parole su un tema molto importante che riguarda la psicologia del profondo. Molte volte la psicologia del profondo è considerata una non scienza. Ecco. In effetti, se consideriamo la scienza sulla scienza della natura, quella che osserva i fenomeni e cerca di coglierne l'oggettività, beh, certo la psicologia del profondo non lo è. La psicologia del profondo, dice Zoya, è più che altro un processo di educazione basato sull'autoconoscenza. Cioè, se io comprendo i miti che guidano la mia vita, non comprendo qualcosa di oggettivo, comprendo qualcosa che mi consente di trasformare me stesso. Ed è qualcosa che mi riguarda me, quindi non può essere oggettivo. Il soggetto e l'oggetto dello studio vengono a coincidere. Si tratta quindi di una crescita analoga, quella proposta dalla psicologia del profondo, e Aleph, anche se non segue proprio i principi della psicologia junghiana alla lettera o alle altre psicologie del profondo, comunque è una, ha a che fare con la psicologia del profondo, nel senso che in Aleph si lavora sui movimenti consci. Va bene. Questa crescita che la psicologia del profondo, e quindi anche in Aleph intendiamo, era un tempo promossa dalle religioni, dalle filosofie e più in generale dalla cultura. Questa crescita, per noi adulti, è la paideia moderna, no? Quindi questa crescita che la psicologia, Aleph e altre psicologie, richiede. Non si tratta quindi di una disciplina scientifica, ma di una disciplina trasformativa, come una forma di educazione. Ecco. E qui è molto importante distinguere tra lo spiegare, le scienze tendono a spiegare il mondo, cioè a spiegare cosa vuol dire. Un foglio piegato non si riesce a capirci cosa c'è dentro, cosa c'è scritto dentro. Spiegarlo vuol dire lisciarlo, metterlo disteso sul tavolo e allora posso vedere cosa c'è scritto. No, la psicologia del profondo, la psicologia a cui aderiamo noi, non spiega come è fatto l'essere umano, ma lo aiuta nella sua trasformazione. Chi aiuta un altro verso, chi si pone nella posizione di counselor, terapeuta, cosa è il suo compito? Non è spiegare, ma è imparare ad abitare la stessa zona psichica. È quello che chiamiamo ricalco, rispecchiamento, ricalco della mappa del mondo. Comprendere quindi significa identificarsi con la vita di un'altra persona in modo da farne parte, entrare nelle sue emozioni e, cosa più difficile talvolta, comprendere e percorrere i miti che sorreggono la sua impalcatura. I miti che, come un magnete posto sotto una bussola, spesso deviano l'ago della bussola e fanno sì che la persona, nonostante l'impegno della sua volontà, non riesca a raggiungere gli obiettivi che si pone. Comprendere i miti di un'altra persona significa imparare ad abitare la stessa zona psichica, comprendere naturalmente i propri miti, senza i quali questo percorso non può essere fatto, e quindi è un percorso di condivisione profonda.